Thank you. io voglio il diritto ad andarci alla scuola. Per me che non ci sono potuto andare e per i miei figli che invece la faranno. Ma quali figli? Ma tu mica c'hai i figli? No, si scherza naturalmente. Metti che incontriamo questa. Che si fa? Dipende da quello che fa lei. Sono incinta! Aprite, per favore! Vuoi tu, Carlo Carati? No, Carlo Tommasi, Francesca Carati. Ah, no, ma c'è anche un Carati maschio, sì, ma sono io. Sì, sono maschio, sono Nicola Carati, fratello della sposa Francesca Carati. Ce lo licenziano così come nell'Ottocento, non è possibile. Ma cosa devo fare? Mi devo raccontare delle favole pure io? Quando torna la mamma? Non lo so, Sara, lo sai che non lo so. Chi che puoi vederla? Non voglio vederla! Ma è lei che vuole vedere te! Ti porto in Francia. O in Grecia, o in Africa, dove ti pare. Ma ti lamenti sempre! Ma di che ti lamenti? Datti i soldi, scusa!